Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Come saranno i negozi del futuro? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Racconteremo le innovazioni che aspettano i consumatori in un futuro molto vicino, un futuro che in alcuni casi è già arrivato. Sono gli effetti speciali che stanno cambiando il modo di fare shopping. Nel focus sui trend andremo invece a caccia delle nuove tendenze e dei fenomeni di costume di quest'estate. Chiudiamo in bellezza la stagione parlando di Summer Style. Prima però ci sono, come sempre, le notizie e curiosità di questa settimana. Carrello della spesa più caro. 642 euro in più su base annua per una famiglia di 4 persone. È la stima del Codacons dopo gli ultimi dati sull'inflazione diffusi dall'Istat, che a giugno registra una crescita di oltre il 4% per i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza. Boom di rialzi per la frutta fresca, quasi il 10%. Sbarca nei supermercati la prima campagna sul bere responsabile. A luglio e agosto nei supermercati della catena Simpli sarà disponibile il materiale informativo realizzato dal Ministero della Salute e in alcuni punti vendita saranno allestiti corner con un simulatore di guida sicura messo a disposizione dall'ACI. Ottimi risultati all'estero per la moda Made in Italy. Nel primo quadrimestre 2012, secondo i dati diffusi da Sistema Moda Italia, registra una crescita di oltre il 3% grazie alla spinta di Cina, Stati Uniti e Giappone. Il mercato interno dell'abbigliamento segna invece una flessione di quasi il 12%. Due spot, un video sui social network, un sito internet, il coinvolgimento di 30 docenti universitari e una serie di testimonial del mondo dell'impresa e del cinema. È cross-mediale la nuova campagna per la donazione di organi, promossa dalla Fondazione Pubblicità Progresso, in collaborazione con l'AIDO, 40 anni dopo la prima campagna, dedicata alla donazione del sangue. Arriva il logo europeo su tutti gli alimenti biologici prodotti in Europa. Da oggi sulle confezioni dovrà apparire l'Eurofoglia, con 12 stelle bianche, che i cittadini dell'Unione hanno scelto tra 3.500 proposte. Nonostante la crisi, cresce in Italia il cause-related marketing, il marketing collegato a una causa sociale. Secondo i dati della Fondazione Sodalitas, nel 2011 gli investimenti sono cresciuti di oltre il 16%, toccando quota 239 milioni di euro. Il marketing sociale vale lo 0,6% del mercato italiano. L'Oréal si prepara a sbarcare online. Nel 2013 il colosso francese, primo gruppo cosmetico mondiale, lancerà il sito dedicato all'e-commerce. La borsa della spesa. La strada su cui viaggi, John Underton, è quella meno percorsa. Assicurati delle storie degli Atlantis. Una storia che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Underton, stappa via da tutto. Bonjour, John Underton. John Underton, avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno passerai con noi, sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Buona Vieni spina, ad Juan. Stacca la spina, John Underton. Dimentica i tuoi guai. Ve la ricordate questa scena di Minority Report, celebre film di fantascienza del 2002 in cui il protagonista Tom Cruise passa davanti a cartelloni pubblicitari intelligenti che propongono prodotti mirati a seconda di chi si trovano davanti. Una visione allora futuristica della pubblicità che è già diventata realtà. Come saranno i negozi del futuro? Come cambieranno le vetrine, l'esposizione, la scelta dei prodotti, i sistemi di pagamento? Prevederlo è sempre più facile grazie ad una serie di innovazioni che sono già state messe a punto e che ci fanno intuire come si trasformerà il nostro modo di fare shopping tra reale e virtuale. La catena di supermercati Tesco in Corea del Sud, quella di Elettronica Media World in Italia, vendono i propri prodotti nelle stazioni con i QR code. Il consumatore passa, fotografa il codice con il proprio cellulare, paga con la carta di credito e si vede consegnare il prodotto direttamente a casa. A Mosca, Topshop ha installato un camerino virtuale per provare gli abiti in 3D, senza spogliarsi. Negli Stati Uniti Kraft ha installato una serie di chioschi che propongono ai consumatori menu personalizzati e in molti ristoranti, anche in Italia, le ordinazioni si fanno via iPad. Ci sono espositori per i prodotti di largo consumo che, grazie a dei sensori biometrici, sono in grado di riconoscere il consumatore in base a parametri quali età, sesso e umore. Parametri a seconda dei quali sullo schermo collegato vengono poi veicolati messaggi pubblicitari ad hoc. Li ha ideati prima al mondo un'azienda italiana, Mairani Group. Riccardo Mairani ci spiega come funzionano. Dobbiamo intendere POP Channel come l'evoluzione di uno scaffale in uno strumento che si perfeziona nell'ambito della capacità di vendere meglio i prodotti che espone, ma soprattutto diventa uno strumento di comunicazione e di marketing, cioè diventa uno scaffale intelligente da questo punto di vista. È una matrice che ha in sé tutta una serie di elementi di selezione, scannerizzazione, utili a identificare dei cluster, quindi delle segmentazioni, tipologie di volto, e riescono in qualche modo a segmentare il sesso della persona, quindi se uomo o se donna, la fascia di età in tre macro segmenti, quindi parliamo di giovane, adulto o senior, e anche quattro livelli di feelings, cioè di sentimento, se sorridente, se arrabbiato, se triste o se sorpreso. Tutti questi elementi arrivano a interagire con il sistema dei monitor integrati in POP Channel e in modo assolutamente automatico. Quando si parla di riconoscimento del consumatore, di parametri biometrici, si parla di privacy, di schedatura. Ecco, voi a questo riguardo che cosa avete da dire? La privacy non è implicata perché, non registrando immagini né filmati, non siamo in grado di riconoscere alcun chi. Oltretutto noi siamo obbligati, sempre per legge, a segnalare che questa tecnologia è presente e che appunto non registra immagini, non è in grado di poterlo fare, ma semplicemente raccoglie dati aggregati ed anonimi. Anche i supermercati puntano molto sugli effetti speciali, per così dire. Unicoop Firenze ha appena inaugurato a Novoli un nuovo format, coop.fi, dove fi sta per filiera corta, e molte sono le scelte tecnologiche per prenotare il proprio turno al banco dei freschi, per esempio, oppure per conoscere la tracciabilità di un prodotto. Ce le siamo fatte raccontare da chi ha firmato il progetto, l'architetto Paolo Lucchetta di Retail Design. Ci piace ritornare alla parola mercato, perché mercato è il luogo delle relazioni per eccellenza, e ci piace però descrivere questo mercato come un mercato contemporaneo in cui l'interazione naturalmente è il cuore, no, dell'idea di fondo, insomma la ricerca, il motore di ricerca dei rapporti con le persone, cioè quindi rapporti di conoscenza, rapporti di mestiere, rapporti fatti di emozioni, di profumi, di multisensorialità, ma perché no anche il supporto, che oggi è particolarmente accessibile, di una serie di tecnologie per rendere appunto questo luogo innanzitutto un luogo vitale. Quindi abbiamo intersecato tecniche tradizionali con diciamo tecniche più sperimentali d'avanguardia. Ci può fare qualche esempio delle soluzioni adottate? Beh, intanto il tema dell'accessibilità, interazione, relazione vuol dire rendere accessibili alle persone, alle diverse abilità, i luoghi. Quindi ad esempio una delle cose di cui siamo anche più orgogliosi, anche per i primi risultati di grande gradimento, sono state ad esempio le prenotazioni all'interno dei vari atelier, delle gastronomie, degli spazi dedicati al pane, che è possibile fare proprio all'ingresso del negozio per mettere in priorità le persone disabili oppure quelle che hanno appunto priorità, come non so, delle mamme in attesa o persone anziane, in maniera tale che possano tranquillamente visitare questo spazio, ma prenotare con una sorta di priorità il momento appunto dello scambio con i mestieri e le aree delle specializzazioni all'interno dello spazio. Quanto è connessa ormai la progettazione degli spazi alle soluzioni tecnologiche ideate e previste? Ma guardi, ormai per chi fa questo mestiere è necessario progettare e disegnare le cose in due dimensioni, quella reale reale e quella virtuale, e più si lavora in questa bidimensionalità e più si ha la sensazione che da questa osmosi possono nascere moltissime occasioni di disegno e di progetto. Oggi è il 1° luglio, tempo di Summer Style, quando l'estate fa tendenza. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Quello che è già stato definito il tormentone dell'estate 2012, apriamo il focus sui trend Summer Style, il tema di quest'ultima puntata, tutta dedicata ai consumi legati al periodo estivo. Ci sono categorie di prodotti che si vendono solo in estate, ci sono marchi che in estate rimodulano la propria offerta con la riedizione di alcuni prodotti. All'immaginario estivo si rifanno molte campagne pubblicitarie, film, nuove iniziative, e nell'estate della crisi e della contrazione dei consumi diventano protagoniste nuove strategie, abitudini e dinamiche di acquisto. Scopriremo quali tra pochissimo in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno e buona estate. Allora, che cosa ci riserva? Che cosa vedremo? Che cosa non vedremo più in questa estate 2012? Parola d'ordine per le vacanze estive di quest'anno è low cost. Gli italiani sono più poveri, è evidente, ma anche se in calo rimangono viaggiatori determinati a fare una vacanza anche breve, a basso costo, magari fai da te, cioè bypassando agenzie e intermediari, sfruttando internet e i social network e le nuove formule di servizi di condivisione, di scambio e baratto, per esempio di abitazioni come Airbnb o Rumorama, o di competenze, di tempo, per appunto alloggi in ostelli, agritour e alberghi. Chi rimane in città può comunque evadere inventandosi pratiche estemporaneamente vacanziere, come il caso del campeggio urbano. A New York qualcuno si è inventato infatti Bivouac, un servizio di fornitura di tende, compresa la cucina da campo e perfino una libreria, sui tetti di alcuni palazzi e grattacieli della città. Niente wifi o corrente elettrica, una scelta intenzionale proprio per non far distrarre i clienti dal vero obiettivo dell'esperienza, che è la fuga dalla città, rimanendo comunque in città. Vacanze brevi e al risparmio anche per quanto riguarda il cibo consumato in spiaggia. L'anno scorso era il 19%, quest'anno un italiano su tre, il 32%, mangia in spiaggia cibo autocucinato e non va più al ristorante. La fonte è Coldiretti, che diffonde i dati di un'indagine di SVG, secondo cui si tratta di uno degli effetti della crisi, è evidente. In calo anche il numero di chi va in trattoria o pizzeria, che scende al 19%, o nei bar e nei fast food, l'8%. Chi può lascia davvero la città, e quale che sia la destinazione, mare o montagna, uno degli indicatori, dei segni della vacanza è chiaramente l'abbronzatura. Era il 1928 quando Vogue lanciò il dibattito essere o non essere abbronzati, e da allora il dilemma estetico è rimasto, con l'aggiunta di un dilemma salute, cioè il sole fa bene o fa male. Una minoranza resiste e non utilizza alcun tipo di protezione, il 50% degli adulti continua a scottarsi, ma circa il 90% di chi si espone usa creme solari, e ci sono delle interessanti innovazioni di prodotto in tema sole e protezione, ovvero salute. Sono i cosiddetti solar wear, cioè i capi d'abbigliamento solari. Parliamo di costumi, magliette, copricapi e indumenti da spiaggia, o comunque da usare quando ci si espone al sole, con filtri solari. Significa che i tessuti proprio sono impregnati di filtri che proteggono la pelle dai raggi nocivi. Tutti i dettagli sul sito di riferimento, che è abbigliamentoantiuv.eu. Altra novità, lo spray tan, l'abbronzatura spray, ma non ci riferiamo evidentemente alle creme spray. Si pratica in città, in centri estetici specializzati, prima di andare in vacanza. Funziona così: l'addetto con una pistola spray spruzza il corpo, che viene viene totalmente ricoperto di una speciale patina scura, cioè il prodotto che abbronza. Per le 6 ore successive non ci si lava e dopo la prima doccia, un po' come succede con la tinta per i capelli, si comincia lentamente a stingere, ma l'effetto abbronzante uniforme totale dura comunque qualche settimana. E hanno un mercato in espansione i solari anti-aging, veri scudi contro l'invecchiamento della pelle, rughe, macchie, inestetismi vari, che sono accelerati, come noto, dai radicali liberi innescati al sole. I solari anti-età contengono sostanze antiossidanti e hanno questa formula il 30% dei nuovi lanci di quest'anno in Europa dei grandi marchi come Corf, Shiseido, Lancaster, eccetera. Dal punto di vista cinematografico, i protagonisti dell'estate 2012 saranno supereroi e cartoon, dal Cavaliere Oscuro Il Ritorno a The Amazing Spider-Man, fino a Madagascar 3 e L'Era Glaciale 4, con un'eccezione già nelle sale, Il Dittatore con Sacha Baron Cohen, il film più irreverente dell'estate. Buon pomeriggio a tutti. Per 4 decenni, il popolo ha vissuto sotto il governo di un tiranno che negava i più elementari diritti umani. È giunto il momento per lui di farsi da parte. Dobbiamo andare avanti con la missione NATO e consegnarlo alla giustizia. Sono per libertà di stampa, lezioni pulite e parità per le donne. Questo non riesco a dirlo. Leader supremo, le Nazioni Unite insistono perché tu vada a New York a chiarire. Bene, andiamo in America. Ammiraglio generale, benvenuto a New York. E già che è qui, le raccomando caldamente di visitare l'Empire State Building prima che lei o uno dei suoi cugini lo abbattiate. Patrizia, per quanto riguarda i prodotti dell'estate, gli oggetti cult sotto l'ombrellone, quali saranno? Ma forse vedremo molte custodie protettive subacquee per i device elettronici, fotocamere in primis, ma anche smartphone, proprio per scattare foto sott'acqua. E vedremo anche sempre più i reader e tablet per letture digitali, che a volte possono salvare dall'imbarazzo di brutte copertine dei libri cartacei o preservare la privacy su letture, per esempio, erotiche. Questo potrebbe essere il caso della trilogia bestseller pubblicata in Italia da Mondadori, titolo 50 sfumature di grigio appena uscito, di nero uscito il 26 giugno e di rosso 28 giugno. L'autrice si cela sotto lo pseudonimo di E.L. James e la trilogia è sulle vicende sadomaso della protagonista femminile. Ha venduto 10 milioni di copie tra cartaceo e digitale negli Stati Uniti e ha generato addirittura un nuovo genere, il mommy porn. E parliamo di moda mare maschile, citando modelli e capi degni di nota, oltre agli immancabili boxer da mare, quelli sì, li rivedremo, intramontabili, lunghi o corti che siano, con prevalenza quest'anno di motivi hawaiani. E tra i costumi maschili sono due le novità da segnalare: il parigamba, lo dice il nome, braghetta fasciante come una guaina per cosce ben scolpite, e lo slip push-up frontale con una chiara funzione antigravitazionale. Si chiama Wonder Jock, del più famoso marchio australiano di costumi da bagno, o Siboom, e i video tutorial si trovano ovviamente su YouTube. Non solo mare, ma anche turismo culturale. Si snoda per tutto luglio e agosto la rassegna I Suoni delle Dolomiti, il festival internazionale unico al mondo che porta cantanti, musicisti, artisti, scrittori, attori, ma anche esponenti della cultura e dello sport tra rifugi, boschi, laghi e vallate del Trentino. L'ingresso, se così si può dire, viste le location a cielo aperto, è gratuito per ascoltare cori, suoni, readings, racconti, poesie, eccetera, in teatri naturali ad alta quota, davvero mozzafiato. Quest'anno in calendario molta musica classica, repertori anche africani, molto jazz e canzoni. Iniziativa simile tra laghi e montagne del Piemonte, Letteraltura, 4 weekend d'autore con iniziative anche sostenibili interessanti, come il palco a pedali, cioè 100 spettatori volontari che pedalando producono l'energia per uno spettacolo musicale che a quel punto diventa a impatto zero. E quest'estate ci potrebbe riservare anche lo sdoganamento del gossip mediatico, che è tipico dei periodi vacanzieri. approvato da un'autorevolissima rivista scientifica, il Journal of Personality and Social Psychology, lo studio secondo cui il pettegolezzo non solo sta alla base della nostra convivenza, fa bene e ci è di grande aiuto. Non significa rubricarlo come virtuoso, ma riconoscerne da un punto di vista antropologico la funzione pedagogica sociale, perché ci dicono i due professori dell'Università di Berkeley, autori del saggio, ci dà informazioni sugli altri che ci permettono di evitarli, di difenderci nell'ambito del gruppo sociale di appartenenza, insomma, il gossip come vantaggio o guadagno sociale. Cosa c'è di nuovo a San Francisco su Summer Style e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Dunque, l'ente del turismo della British Columbia, che è una regione canadese di montagne rocciose a picco sul mare, ha ideato una sorprendente campagna ambient per attirare nuovi potenziali visitatori e promuovere tutte le attività estive che vi si possono svolgere. Chi per caso si è trovato a passare dalla Justin Herman Plaza nella città californiana si è imbattuto in un'enorme vending machine, alta più di 4 metri, che erogava gratuitamente in modo casuale prodotti decisamente fuori dal comune. Guide turistiche, teli da spiaggia, prodotti artigianali, cartoline giganti, ma non solo. Perché i più fortunati, tra l'incredulità e lo stupore dei passanti, si sono visti distribuire mountain bike, tavole da surf o kayak gonfiabili. In pratica tutto l'occorrente per un'avventurosa vacanza all'insegna degli sport all'aria aperta. Il tutto abilmente ripreso da video che hanno fatto il giro del web, amplificando la risonanza dell'iniziativa che fa parte della campagna 100 British Columbia Moments, i 100 momenti della British Columbia, e che si leva su due principali fattori: l'effetto sorpresa e la capacità di offrire in modo decisamente non convenzionale un'anticipazione tangibile della varietà di esperienze possibili in questa destinazione turistica. Grazie Alessia. Patrizia, diamo la linea, per così dire, di questa estate 2012. In chiusura riassumiamo le tendenze principali. Allora, un'estate low cost evidente, estate social per l'uso dei social network come rete informativa delle persone per facilitare anche le strategie creative, appunto, di scambio all'insegna di condivisione di case, servizi, trasporti, eccetera. Sarà anche un'estate sportiva, influenzata nelle pratiche attive e in quelle passive dai giochi olimpici, evidentemente tecnologica, perché essere connessi ormai è un implicito, non ha più a che fare con il dove siamo, è evidente, e anche un'estate però escaping, cioè di stacco totale, di isolamento e di disconnessione. Quella di oggi è l'ultima puntata della stagione per Essere e Avere. Con l'avvio del palinsesto estivo a luglio e agosto vi terremo compagnia con il meglio di un'antologia dei temi trattati in tutti questi mesi. Mi prendo qualche secondo in più per ringraziare come ogni anno le nostre ospiti fisse, Patrizia Martello e Alessia Zampano di Memetic Lab, gli speaker Alessandra De Luca, Mario Nutarelli, Diego Baldoin e poi, preziosissimi, in regia Peter Bescapè, Filippo Aureggi, Fabio Cantadori, Carmelo Lauricella, Paolo Corleoni, Pietro Lacorte, Roberto Scaltritti, Valeria Bernardi, Matteo Comes. Spero di non aver dimenticato nessuno. In attesa delle nuove puntate, l'appuntamento è comunque per domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.